Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione dedicata a chi forse non ama gli animali, ma li rispetta e che ha l'ambizione di fare da megafono alla vasta e variegata galassia animalista, antispecista e vegan. Una trasmissione che va in onda in FM a Bolzano, Trieste, Verona, Venezia, Bologna, Lecce, Taranto e che da questa settimana va in onda anche a Busto Arsizio. Salutiamo così la settima emittente che trasmette la nostra trasmissione, una web radio, Radio Busto Live di Busto Arsizio e Valle Olona. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. E il filo rosso della puntata di oggi è riassumibile in poche parole chiave: gabbie, gentilezza, umorismo. Speriamo di avervi incuriositi. Partiamo subito con la notizia di attualità più importante della settimana. I conigli diranno addio alle gabbie. Ci vorrà ancora del tempo, ma il Parlamento europeo, in seduta plenaria il 14 marzo scorso, ha detto sì a una risoluzione che impegna l'Europa a mettere al bando i sistemi di allevamento in batteria dei conigli e a elaborare una regolamentazione specifica per la tutela di questi animali, fino ad ora completamente ignorati. Ora la palla passa alla Commissione, che ha il compito di scrivere la nuova legislazione. L'assenza di una normativa sul benessere dei conigli cosiddetti da carne ha fatto sì che ad oggi il 99% di questi animali sia allevato in batterie del tutto simili a quelle delle galline ovaiole. La dimensione ridottissima delle gabbie non consente agli animali di alzarsi sulle gambe posteriori, di saltare o di sdraiarsi su un fianco, comportamenti naturali caratteristici dei conigli. In questi allevamenti poi la mortalità è molto alta, pensate fino al 30%, a causa di un elevato tasso di infezioni. Dopo la diffusione di un video shock che mostrava le reali condizioni in cui i conigli sono costretti a vivere negli allevamenti, soprattutto in Italia, terzo paese produttore di carne di coniglio nell'Unione Europea, oltre 600.000 cittadini hanno firmato una petizione lanciata su change.org che voleva l'abolizione delle gabbie. Ogni anno vengono macellati nel mondo più di 1 miliardo di conigli e a tenere la bandiera alta è la Cina, produttore di più di 475 milioni di conigli. Le investigazioni di Animal Equality hanno mostrato una realtà drammatica. Le loro immagini, raccolte in oltre 75 aziende agricole italiane, hanno fatto aprire gli occhi anche agli eurodeputati. Nel mondo animalista e vegan, contrario a ogni tipo di allevamento e sfruttamento animale, le reazioni a questa notizia sono molto controverse. Ci sono due posizioni polarizzate ed opposte. Chi pensa che la politica dei piccoli passi possa essere vincente, perché a mano che gli animali ottengono livelli di crescente benessere, i costi crescenti per gli allevatori finiranno per comprimere il profitto e disincentivare quindi questa attività fino alla sua scomparsa, e chi invece ritiene che non si debba in alcun modo scendere a compromessi e che non sia il nostro mondo a dover chiedere di migliorare il benessere degli animali allevati, lasciando queste richieste ai cosiddetti consumatori carnivori e alle loro coscienze. Saranno loro, semmai, a sentire il bisogno di chiedere maggior benessere per gli animali allevati. Ogni miglioramento del benessere animale, secondo quest'ottica, sarebbe una legittimazione dell'allevamento e ogni compromesso ci allontanerebbe dalla meta del superamento del carnismo, che non può avvenire per gradi. Nessuno sa esattamente quale sia la strategia vincente e forse nessuna strategia da sola può farcela. Probabilmente sostenere con Compassion in World Farming che il voto del Parlamento europeo sia stato un giorno fantastico per i conigli europei è un po' troppo sopra le righe. Però mettiamola così, facciamo un parallelo con persone detenute ingiustamente o ingiustamente condannate a morte. Avrebbe senso fare qualcosa affinché potessero almeno ottenere cure mediche? E poi, ottenere cure mediche o condizioni di detenzione meno disumane impedirebbe forse di continuare la battaglia per la loro libertà? Torneremo su questo argomento e ascolteremo tutte le posizioni in campo nelle prossime puntate. Never careful till it hits the gun. She will always pay the bills for the having big fun. He talks so well, what can you do? It's pretty plain, he means it too. I don't want to sell you lines, I only mean to do you right. But I'm a simple slave of appetite. I'm a poor slave of appetite. Hunger howls, hunger's red. Hunger stays till it's fed. Then it somehow fades. Then it somehow leaves your side. Depending on its appetite, depending on your appetite. So if you take, ci sono molti modi per promuovere uno sguardo diverso verso la condizione degli altri animali, da quello politico-filosofico a quello artistico-letterario. Nella storia della nostra trasmissione abbiamo spaziato da Margherita Hack a Franco Battiato, da Tullio Solenghi a Jonathan Safran Foer. Oggi tocca a Red Canzian, storico bassista dei Pooh, che sta girando l'Italia assieme a sua figlia Chiara in veste di autore di un libro nel quale ha racchiuso tutta la sua gratitudine per una scelta che gli ha salvato la vita. Sono queste le sue parole testuali. Si parla della scelta vegan che Red abbraccia da anni e che promuove sempre molto volentieri, al punto da aver accettato, durante la tappa fiorentina, di rispondere alle impertinenti domande di uno sfrontato Giuseppe Coco, che si è interposto tra padre e figlia sia in audio sia in qualche notevole scatto fotografico che pubblicheremo naturalmente nel nostro blog www.restiamoanimali.it. Intanto sentiamo l'intervista. Le peculiarità di questo libro, a parte la simpatia di chi l'ha scritto? La peculiarità di questo libro è nel sottotitolo, Storie e ricette. È un libro diviso esattamente a metà, dove io ho fatto la parte etica, dove racconto le mie scelte, racconto le mie esperienze, racconto quello che ho capito e imparato in questi anni da vegano e anche prima da non vegano, che comunque non mangiava carne e quindi cercavo in qualche modo di trovare delle motivazioni, no, per arrivare ad essere vegano. Per cui spiego queste cose, spiego i grandi imbrogli della televisione, della pubblicità, che ci hanno raccontato che il latte fa bene all'osteoporosi, che lo zucchero fa bene alla testa, però lo faccio con grande garbo e gentilezza, perché quello che secondo me i vegani della prima ora hanno un po' sbagliato, pur avendo ragionissima in quello che portavano avanti, era questa forma di integralismo, no? Quando sei un po' troppo incazzato, non c'è niente da fare, la gente là lontani, non la avvicini. E invece in questo caso mi sono accorto che proprio noi avviciniamo la gente, a parte perché vengono attratti dai piatti meravigliosi, e tu lo sai che un italiano quando gli offri qualcosa di buono da mangiare lo conquisti, per cui grande merito alle 50 ricette di Chiara. Ma sicuramente anche dal modo in cui noi proponiamo queste cose. Noi non siamo convinti di avere la verità in tasca, o meglio, la nostra è una verità, ci sono forse anche altre verità, però è proprio nella condivisione di queste verità che possiamo arrivare a una soluzione di scambio, perché se tu non sei vegano, ma io ti convinco con dolcezza a mangiare 3 volte alla settimana vegano, è già un successo pazzesco. Riduciamo del 50% nel mondo l'uso della carne, se tutti lo facessero. Io sono convinto, l'ho detto stamattina questa frase, mi piace ripeterla, tutti noi siamo colpevoli non per quello che facciamo, ma per il bene che non facciamo, e allora bisogna fare qualcosa, e questo credo sia una cosa buona, quella che facciamo. La bella occasione è stata quella di essere coinvolto in questo progetto per fare qualcosa che mi piace fare, che so fare, assieme a chi amo, no? Quindi un equilibrio idilliaco. Le ricette sono 50, sono stagionali, 10 per stagione, 10 dedicate ai dolci, e sono molto italiane, da qui anche parte del titolo, nel senso che molte ricette sono tradizionali, proprio della cucina povera italiana, dalla pappa al pomodoro, la ribollita, la pasta e fagioli, risi e bisi, la farinata. Ci sono proprio tante ricette che fanno parte della nostra tradizione, e poi altrettante che invece partono da una mia ispirazione creativa. Sicuramente è più leggera, più sana e più etica. Io questa strada la seguo principalmente per la questione etica, quindi sicuramente questa è la grande differenza, no? Tra le due cucine. Il vegano gentile, come dici te, che caratteristiche deve avere? Allora, non è maciato. Si lava i capelli, non porta maglioni larghi, no, scherzo. Il vegano gentile è un vegano che ha voglia di confrontarsi e non di scontrarsi. È un vegano, guarda, te lo dice uno che è andato a fare il picchettaggio davanti a una famosa azienda farmaceutica per far liberare 32 beagles. Ho deciso che se vogliamo cambiare le cose dobbiamo farlo con grazia, con gentilezza, e tu non hai idea quanta gente noi avviciniamo. Poi, ripeto, con le sue ricette è molto facile. Questa ricotta con latte di mandorle, che tu non puoi capire cos'è, cioè la gente che se ne spalmava chili sul pane erano già appagati solo con l'antipasto, proprio buono, buono, buono, buono. E allora stiamo bene così, hai capito? Cioè, io credo che il mondo va cambiato con piccoli passi. Abbiamo fatto un servizio fotografico, un video con un agnellino e una capretta. Beh, tu devi vederli. Questi mangiavano dal biberon come un gattino, come un cane, scodinzolavano. Cioè, come si può pensare che a un mese tu sgozzi un animale così per mangiartelo? Cioè, ma i cuccioli di tutto il mondo vanno protetti, santo Dio. Cioè, che siano cucciolo di uomo, cucciolo di scimmia o cucciolo di pecora, è sempre un cucciolo, cioè hanno diritto alla vita, quantomeno come tutti noi. Poi gli eventi, le malattie, le cose ci condizioneranno, ma la partenza lasciamogliela. Guarda, resto nel mio ambito. Per me il vegano gentile è un vegano che non perde il piacere della tavola. Quindi vegano non vuol dire triste, non vuol dire sciapo, non vuol dire anoressico, magro, emaciato. Cioè, io sono d'accordo con la prima parte della risposta ironica del papà, invece secondo me è una risposta che veramente bisogna dare un'immagine dei vegani sana, bella, sorridente, anche formosa, perché no? Cioè, io mangio tanto. Siamo normali. Sani ci definisce, vabbè, detto da lui è un complimento, ci definisce una setta, dicendo che lui li ammazzerebbe tutti. E allora io una volta gli ho risposto in un blog, gli ho detto: se lui avesse ammazzato tutti i vegani saremmo senza Pitagora, Ovidio, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, la Margherita Hack, Einstein, cioè insomma un po' di gentina, un po' di cervelloni ci sono. Lasciamo stare noi e Giovanotti e Battiato. Red Kantian, restiamo animali? Restiamo animali, e restiamolo seguendo il nostro istinto, perché se voi mettete una fragola e un coniglietto davanti a un bambino di 2 anni, vi assicuro che il bambino prenderà la fragola e lascerà stare il coniglietto, al massimo lo accarezzerà e lo abbraccerà. Questo è restare animali. Chiara Canzian, restiamo animali? Restiamo animali e mangiamo sano e etico. E lo ricordiamo, il titolo del libro è Sano, Vegano, Italiano, Storie, puntini puntini e ricette di Red e Chiara Canzian, edito da Rizzoli, 250 pagine suddivise in storie e 50 ricette che cambiano con le stagioni. Prezzo 19,90 euro. Notizia sorprendente viene da Rimini, dove una rinomata macelleria ha deciso di dedicare una parte del banco ad affettati e formaggi vegani, che da venerdì scorso fanno bella mostra in negozio. I signori Federico, Giancarlo e Rita della macelleria Guidi e Casali di Rimini hanno accettato la sfida lanciata loro da Vegan Delicious, un'azienda che produce in una ex macelleria solo affettati vegani no gluti, cioè senza glutine, di altissima qualità e formaggi 100% vegetali. I cittadini riminesi, clienti del negozio, potranno ora scegliere se acquistare prodotti di origine animale o prodotti vegani, o entrambi. Anche su questa notizia i commenti sono molto polarizzati. Per alcuni si tratta dei primi vagiti di una auspicata riconversione produttiva. Per altri sono invece una vittoria del mercato, che invece di eticizzarsi si limita a segmentare, proponendo qualsiasi cosa a chiunque la chieda, magari sperando di recuperare così le flessioni del profitto. Noi della redazione continuiamo a preferire chi punta unicamente sul vegan e per ragioni etiche, ma continueremo a osservare con molta attenzione queste strane macellerie double face. Uno dei fenicotteri dello zoo di Jihlava nella Repubblica Ceca è stato ucciso a calci e sassate da 3 bambini che vanno dai 5 agli 8 anni. I piccoli criminali hanno scavalcato la recinzione dove si trovava lo stormo e hanno iniziato a lanciargli contro pietre e prenderli a calci. Uno degli animali è rimasto gravemente ferito a una zampa, mentre l'altro è morto. «Sono allibita dalla brutalità di questo attacco», ha commentato Elizabeth Kubikova, direttore dello zoo. Il volatile morto era una femmina di 16 anni che era sopravvissuta alle inondazioni dello zoo di Praga nel 2002. I 3 ragazzini sono fuggiti dopo l'assalto, ma sono stati identificati grazie alle telecamere interne e presi. Secondo gli agenti che li hanno interrogati, i ragazzini non hanno mostrato alcun rimorso per l'accaduto. Dato che sono minorenni, molto probabilmente saranno i genitori a pagare per l'accaduto. Non ci sarà nessuna condanna penale, ma un risarcimento di circa 1.600 euro. Una ricerca dice che i vegani a letto durano di più. Infatti io mi alzo a mezzogiorno. Questo battutone è il disclaimer di Manuel Negro nella sua pagina web www.ilcomicovegano.it. Certo, i modi per promuovere il rispetto verso gli altri animali e un'etica cruelty free sono tantissimi, come dicevamo. Finalmente, qui c'è un comico che contribuisce a sfatare lo stereotipo del vegano triste e arrabbiato. Non che ci manchino motivi per essere tristi e arrabbiati, ma per fortuna anche la comunità vegan è un mondo variegato, esattamente come ogni altro gruppo sociale. Roberta Marino, forse stufa dei conflitti interni al Movimento per la Liberazione Animale, ha deciso di mandare tutti al diavolo e andare allo spettacolo di Manuel Negro per farsi quattro risate. E come darle torto? Ridiamoci sopra. Da perito chimico a perito comico. Da perito comico a comico vegano. Ecco in sintesi la biografia di Manuel Negro, che dopo autore e conduttore radiofonico e televisivo, ora è anche autore a tutti gli effetti del suo libro Vegani, se li conosci non li eviti, edito da Sonda. Il libro è stato presentato in anteprima Fa la cosa giusta, dove tra una battuta e l'altra siamo anche riusciti a farci raccontare da lui qualcosa di serio sulla sua vita e soprattutto di come promuove l'etica della scelta vegan nei suoi spettacoli, con ironia e comicità. Sentiamolo. Il libro è nato dalla mia esperienza di comico. Io sono uno showman, ho fatto il comico e l'autore comico in diverse situazioni, ho scritto per molti artisti comici anche nazionali, ho fatto l'autore in trasmissioni televisive comiche, Striscia la Notizia è una per tutte, ma anche in tantissime altre locali e non locali, ho fatto la radio anche, che è una cosa bellissima. Dopodiché ho iniziato a fare il comico, il cabaret, in uno spettacolo di varietà che porto avanti a tutt'oggi, che da circa 15 anni insomma. Quando sono diventato vegano ho deciso di raccontare la mia esperienza da vegano attraverso la comicità, che era il mio mezzo di comunicazione, perché mi sono reso conto che c'erano veramente tantissime cose da dire che mi capitavano da raccontare in modo comico. Sono diventato vegano, come dicevo, il 25 aprile, adesso non mi ricordo se 3 anni fa o 4 anni fa, ho scelto questa data casualmente, poi mi sono reso conto che il 25 aprile è il giorno della liberazione e mi piace pensare che per me sia il giorno della liberazione animale, anche perché è giusto liberare non solo gli uomini ma anche gli animali, che sono attualmente i più sfruttati. E da quando sono diventato vegano ho iniziato ad informarmi veramente su questo mondo, su che cosa voleva dire essere vegani davvero, e quindi la componente etica poi ha preso un sopravvento anche inaspettato, che dentro di me si è sviluppato uno spirito diverso, un'etica completamente diversa, mi è cresciuta l'empatia, empatia che io pensavo fosse una malattia fino a qualche anno fa. È importante, soprattutto quando faccio lo spettacolo, che la gente rida, e ridendo non si rende conto a volte di che cosa gli sto dicendo molto spesso. Quando io dico in famiglia hanno scoperto che sono vegano, la prima cena è stata drammatica, a un certo punto mi hanno portato un piatto di salumi e ho detto nonna ma io sono vegano, dice sì ma questo lo puoi mangiare, questo non è carne, è affettato. Allora il pubblico ride e poi dico nonna ma guarda che il prosciutto non lo mangio perché il prosciutto è carne di maiale, sì ma è solo la gamba nonna, dico sì adesso il maiale va in giro con la protesi. Il pubblico onnivoro ride moltissimo di queste battute, ma nel frattempo non si rende conto che gli è entrata in testa una cosa, che l'affettato in realtà è carne, che è un animale, che il prosciutto in realtà è un maiale, quindi cerco di eliminare nella loro mente la rimozione tra il prodotto e l'animale. Cerco di fargli fare il collegamento in modo ironico, questo è l'obiettivo finale. Ragazzi, sappiate che dietro una battuta spesso si c'era un messaggio molto forte, noi a volte non ce ne accorgiamo, ma c'è qualcosa di molto forte. Serve quella battuta lì perché il pubblico rida e perché capisca che il prosciutto è un maiale. Secondo te questo non è un modo per sminuire o per deridere i vegani come già fanno, che ne so, i vari Crozza della situazione? La differenza è che lui deride i vegani. Io porto avanti l'etica vegana attraverso la risata, che è completamente diverso. Cioè io faccio un lavoro rivoluzionario, lui fa un lavoro reazionario. Lui prende in giro i vegani portando avanti le istanze dei carnivori, perché questo è il sistema, vuole questo. Quindi fa un lavoro reazionario, cioè ci fa stare nello status quo. La massa ride con lui, ride di noi, perché dice i vegani sono dei cretini. Se non voglio essere troppo superbo, è rivoluzionario perché? Perché io faccio ridere dei vegani ovviamente, ma ridere dei vegani, cioè l'autoironia serve perché il pubblico onnivoro, che è la maggior parte di quello che vede i miei spettacoli, accetti la mia figura di vegano, accetti il vegano e lo veda come non alieno, come non un corpo estraneo, ma come uno di noi. Quando loro hanno capito che io sono uno di loro, io aumento la satira e attacco anche gli onnivori e comunico sempre dei messaggi. Un classico esempio è questo: parlavo con un amico vegano, lui mi ha detto: Manuel, sono stufo di questa cosa che anche le piante soffrono. Manuel, ma tu hai mai sentito un cetriolo urlare? No, ma ho sentito urlare per un cetriolo, questo sì che... Stevie knows that nobody's gonna bring me down. Cause me and Stevie, see, we're gonna be sending on the fucking fucking sound. Busting out and breaking ground. Come on, sailing on. Just sailing on, sailing on the higher ground. In onore di Manuel Negro, per la puntata di oggi abbiamo sfidato Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, chiedendogli una ricetta dal sapore comico. Sentiamo cosa si è inventato. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Rimanendo in tema di comici e buon umore, oggi vi presento una ricetta che, grazie alle proprietà dei suoi ingredienti, aiuta la produzione di serotonina. Banane, noci e cioccolato, ricchi di vitamina B6 ed omega 3, ci aiuteranno a sollevare il nostro stato d'animo. Ecco qua il flan di banane con salsa al cioccolato e granella di noci tostate. Gli ingredienti per 4 persone sono 2 banane mature, 100 g di panna vegetale, 100 ml di latte di cocco, 80 g di zucchero di canna, 50 g di cioccolato fondente, un pizzico di cannella in polvere, 20 g di amido di mais, qualche noce e un pizzico di sale. Sbucciate le banane e tagliatele a pezzetti. Mettetele nel bicchiere del frullatore assieme al latte di cocco, 50 g di panna vegetale, 70 g di zucchero di canna, il pizzico di sale e l'amido di mais. Emulsionate bene fino ad ottenere una bella crema liscia. Portate ad ebollizione a fuoco lento in un pentolino mescolando con una frusta. Quando l'impasto inizierà a sobbollire e addensarsi, togliete dal fuoco e versatelo in 4 stampini e lasciatelo freddare. Nel frattempo tostate le noci in forno o in una padella con i rimanenti 10 g di zucchero di canna. Dopodiché tritate fino ad ottenere una granella. A parte fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente e quando sarà ben fuso aggiungete i rimanenti 50 g di panna vegetale e lavorate con una frusta. Sformate il flan di banane su un piatto e decorate con un generoso cucchiaio di cioccolato e una spolverata di granella di noci. Quindi buon appetito, o anzi buon divertimento! Si conclude una puntata che è stata resa possibile dai contributi di Roberta Marino, Manuel Negro, Giuseppe Coco, Red e Chiara Canzian, Lorenzo Guadagnucci, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, da Camilla Lattanzi. L'augurio di una buona giornata e l'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora.